Nuova battaglia del ministro Brunetta contro i fannulloni. Dopo gli attacchi ai bidelli, agli insegnanti, agli impiegati, ai cineasti, agli sceneggiatori e ai magistrati, questa volta l'infaticabile ministro alza il tiro e se la prende coi corazzieri. «È comodo stare lì ore e ore a far niente», ha tuonato Brunetta, «e poi a fine mese ritirare lo stipendio». «Quando alla rivista andiamo tutti equipaggiati, gli altri hanno i cavalli proprio veri e ben piantati, io di quei cavalli forse non ne sono degno, e c'ho un cavallo a dondolo di legno. Se vedi un elmo che cammina solo, salutalo e sollevalo dal suolo, che sotto mamma mia con gran piacere ci troverai tuo figlio corazziere».